cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Sale a quota 30 miliardi la manovra che l'Italia dovrà varare entro la fine di ottobre. La lista delle priorità del paese secondo il governo si allunga e si complica. In cima all'elenco le misure che aiutano la crescita, in primis la necessità di disinnescare le clausole di salvaguardia e evitare un nuovo rialzo dell'IVA che potrebbe pesare sull'economia oltre 15 miliardi. Si tratta di cifre prive di fondamento, così il Ministero dell'Economia smentisce le indiscrezioni circolate in questi giorni sulla legge di bilancio. È assolutamente prematuro fare congetture, si apprende in una nota di Via 20 Settembre. I provvedimenti dipenderanno dai nuovi obiettivi di finanza pubblica contenuti nel DEF e dalle decisioni politiche che il governo assumerà successivamente. La finanziaria, la legge di stabilità, insomma, si avvicina l'autunno, si avvicina la resa dei conti. Abbiamo con noi in linea quest'oggi il sottosegretario al Ministero dell'Economia, Paola De Micheli, del PD. Buongiorno. Buongiorno. E in co-conduzione Deborah Rosciani da Milano. Buongiorno Deborah. Buongiorno anche a voi e grazie Elisabetta. Ben ritrovata intanto. Allora, sottosegretario, abbiamo sentito, si fanno dei numeri, 30 miliardi, ma Renzi promette tagli alle tasse. Ce la farete? Quali sono i margini con Bruxelles? Perché qui si parla di una manovra mostro. Ma io credo che la discussione sui numeri sia realmente prematura, perché noi dobbiamo arrivare prima a definire la nota di aggiornamento del DEF, all'interno della quale ci sono tutti gli obiettivi di finanza pubblica e quelli che sono, tanto per essere diciamo così più semplice possibile, i numeri che servono per poi costruire appunto la legge di stabilità entro il 15 di ottobre. Fino alla fine di settembre parlare di cifre è realmente prematuro, mentre è molto interessante il dibattito su quelle che devono essere le priorità rispetto a quella che sarà la coperta larga o stretta che verrà fuori dai numeri di settembre. E invece sulle priorità mi sembra che il dibattito estivo si sia abbastanza ampliato. Io sono molto d'accordo con quello che sentivo all'inizio della trasmissione rispetto a quelle che devono essere le nostre priorità politiche, gli interventi rispetto alla competitività. Noi non siamo nelle condizioni di poter rispettare le nostre promesse elettorali se non continuiamo a crescere, e siccome la crescita comunque di poco o di tanto lo vedremo, ma sarà inferiore rispetto alle previsioni, noi abbiamo la necessità di accelerare soprattutto sulle misure di competitività. Per questo il Presidente del Consiglio ieri ha parlato di tasse, perché soltanto rendendo il Paese più competitivo e più produttivo noi saremo nelle condizioni anche di rispettare tutti gli altri impegni che ci siamo assunti con i cittadini italiani. Deborah. Sì, no, volevo solo chiedere, anzi, dando il mio buongiorno all'onorevole De Micheli, se è vero che il governo avrebbe pronta anche una patrimoniale, come indica il giornale questa mattina. La state accarezzando di nuovo questa idea? No, non fa parte, non c'è nelle nostre intenzioni nessuna ipotesi di aumento di tasse. Disinnescheremo, così come abbiamo fatto sempre, le clausole di salvaguardia di cui avete appunto anche già parlato sull'IVA. Esatto, su tutte le clausole di salvaguardia, e non abbiamo nessuna intenzione di aumentare le tasse di nessun genere e tipo. L'obiettivo è quello di ridurle, e questo deve essere abbastanza chiaro, è un punto abbastanza inamovibile di tutta la discussione rispetto alle priorità da inserire nella futura legge di stabilità. Questo è un impegno che vale qualunque siano i numeri appunto che introdurremo nella nota di aggiornamento del DEF, e qualunque sarà poi il numero della crescita, che poi è il vero dato importante, fondamentale, che riusciremo ad ottenere per il 2016 per il 2017. Ma la digital tax invece però la volete mettere? Ma lì c'è un discorso, diciamo così, più legato a quelle che sono le indicazioni europee. È un'imposta molto, come sa, molto discussa, era già stata introdotta in una lettura della legge di stabilità alla fine del 2013, poi è stata tolta. In realtà oggi come oggi è necessario fare una riflessione seria se quel tipo di tassa potrebbe in un qualche modo limitare lo sviluppo di questo settore, oppure se effettivamente diventa una fonte di entrate importante. Questo è ancora un elemento di discussione all'interno del governo. Onorevole De Micheli, allora ieri Renzi ha detto ridurre le tasse, lei questo concetto lo richiamava poco fa, non è soltanto giusto, è anche un fatto di competitività, e ha mostrato di nuovo la sua grande soddisfazione per l'accordo che è stato raggiunto con la compagnia aerea Ryanair, uno dei tanti esempi di quello che possiamo fare. Quali altri modelli sono perseguibili su questa strada, secondo lei? Perché insomma, con Ryanair è stato fatto un accordo, investite nel nostro paese, ma naturalmente in cambio anche dell'abbattimento delle tasse aeroportuali. Quanti altri esempi di questo tipo sono praticabili, secondo lei? Con quali altre aziende si può parlare in termini come questo? Innanzitutto non vorrei che passasse l'idea che c'è una misura ad hoc per Ryanair. Il governo non ha aumentato le tasse aeroportuali per tutti gli operatori. Gli operatori poi nell'ambito del mercato sono liberi di scegliere, di scegliere di investire in Italia o di non investire in Italia. È del tutto evidente che le condizioni oggi sulle, diciamo così, questioni infrastrutturali italiane sono condizioni molto più vantaggiose del passato, non soltanto per questioni fiscali, ma proprio perché noi ci siamo messi, diciamo così, con molta più determinazione del passato anche a realizzare le misure che vengono che sono state votate. Troppo spesso ci siamo trovati nelle condizioni di votare anche delle leggi giuste e poi dopo di non vederle realizzate. Sul tema delle infrastrutture questo è stato un vulnus incredibile che ha limitato tantissimo lo sviluppo del paese. Glielo dico perché ho la delega al CIPE, che è il Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, all'interno del quale passano la stragrande maggioranza degli investimenti di questo paese. E in questi 2 anni e mezzo di lavoro ci siamo resi conto di quante decisioni prese anni e anni fa alla fine non siano state attuate, lasciando quindi interi territori magari senza un'infrastruttura importante. Ecco, il tema che ha nel dibattito che ha posto l'investimento di oltre 1 miliardo che farà Ryanair in Italia è esattamente questo: non solo non aumentare le tasse, ridurle là dove è possibile, ma anche e soprattutto realizzare quelle decisioni che Parlamento e Governo hanno già preso, realizzandole tutte con un tempo, con una velocità che in passato non si è vista. Io glielo dico perché è uno degli aspetti di governo della mia breve esperienza di governo che mi ha più colpito, la non attuazione di tante decisioni che invece democraticamente sono state prese in passato. Chiaro, però insomma, se state immaginando altre azioni del tipo del modello Ryanair, lei non è in grado di dircelo in questo momento. No, ci sono tantissime realtà locali, per esempio. Noi abbiamo fatto i patti territoriali in questi 2-3 anni, abbiamo realizzato un numero cospicuo di patti territoriali, che sono accordi che vengono presi tra governo, regioni e imprese che intendono investire sui territori. Penso ad alcuni patti territoriali che adesso stanno prendendo finalmente forma per il sud, dove ho un'impresa o più imprese, grazie a condizioni che vengono stabilite sulla base della condizione territoriale, ovviamente, magari non sono condizioni nazionali, decidono, considerato il fatto che migliora la competitività, decidono di stare in quel luogo o di investire in quel luogo. In questi anni sono oltre 25 i patti territoriali che abbiamo sottoscritto. Da qui alla fine della legislatura contiamo di portarne a compimento altri. Magari sono aziende meno grandi di Ryanair, ma che sui territori hanno impatti da 500, 600, 700 posti di lavoro che potete immaginare, certo, sono importantissimi. Senta, ma i maligni invece dicono a livello politico che in realtà Renzi promette di abbassare le tasse, promette anche una svolta all'economia, insomma l'intenzione è proprio di avere un forte impatto in autunno, perché così spera di ottenere il sì al referendum. Ma allora, innanzitutto il sì al referendum è importante per l'economia. Io questa è una discussione che faremo ancora nei prossimi mesi, da qui al voto, ma questo deve essere abbastanza chiaro, perché è un paese che dimostra di non essere capace di cambiare e di migliorare le proprie regole democratiche, di renderle più consone alla modernità, senza intaccare ovviamente i principi fondamentali della propria convivenza, un paese che dimostra di continuare a conservare anche regole che si sono dimostrate non più utili alla risposta democratica. È del tutto evidente che in termini economici si dimostra altrettanto conservatore, e noi di questo sicuramente non abbiamo bisogno su questioni economiche. Quindi lei dà ragione alla stampa statunitense che dice che il no al referendum sarebbe peggio della Brexit? Beh, in termini di impatto internazionale sicuramente darebbe un segnale molto molto negativo del nostro paese, sono convintissima che ci faremmo veramente molto male. Detto questo, le misure contenute nella legge di stabilità saranno rese pubbliche il 15 e il 16 di ottobre, molto probabilmente prima del voto del referendum, probabilmente anche la prima lettura alla Camera o al Senato, la prima lettura parlamentare della legge di stabilità sarà fatta prima, quindi mi sembra una discussione, quella della captatio benevolenza del Presidente del Consiglio sul referendum, molto banale. La verità è che il governo è impegnatissimo sulle questioni dell'economia, perché riportare, diciamo così, condizioni di competitività internazionale nel gioco economico del nostro paese dentro di un'Europa che arranca, perché noi parliamo tanto dell'Italia, ma in questi giorni è emerso in maniera chiara che è tutta l'Europa che rallenta, e se è vero come è vero che la Germania continua ad essere, diciamo così, una macchina che viaggia a delle velocità superiori alla media europea, è anche vero che noi non possiamo immaginarci un futuro nei prossimi 10 anni con un'Europa così. E quindi dentro ad una dimensione europea che deve cambiare, noi siamo assolutamente determinati a portare avanti questo piano di riforme e di riduzione fiscale per rendere l'economia più competitiva. Ripeto, il referendum in questo è un punto chiave, è un punto di svolta chiave, perché dimostrerebbe la capacità del nostro paese di modernizzarsi anche in tempi non eccessivamente lunghi, perché poi l'iter referendario è stato, rispetto, diciamo così, anche ad altri iter, piuttosto veloce. Un'Europa che arranca, lunedì probabilmente a Ventotene avranno da discutere anche di questo Renzi, Hollande e Angela Merkel. Onorevole De Micheli, allora, il tema della competitività internazionale, di questo contesto difficile in cui si trovano naturalmente ad operare con grande difficoltà anche le imprese italiane. Lei è un'imprenditrice, si gioca sempre, molto spesso, appunto, questa carta ai dibattiti a cui viene chiamata a partecipare. Allora, nella manovra agricola, faccio parte di quel settore che in questo momento è ancora... Che va bene, ieri c'erano delle indagini sui giornali, sì, infatti. Allora, in questa manovra di stabilità, dalla quale si discute molto, appunto, e si mettono sul piatto un sacco di cifre, a prescindere poi dalle cifre che la caratterizzeranno, si penserà, secondo lei, in maniera più significativa alle imprese? Quante pagine è lungo il capitolo detassazione dei premi di produttività? È giusto, secondo lei, continuare ad insistere sulla strada degli incentivi fiscali? Perché si continua ad insistere sul fatto che quelle imprese che non hanno vocazione internazionale non hanno possibilità di sopravvivenza in Italia. Il mercato domestico in questo momento è debole per tutti. Allora, ci spiega com'è possibile pensare ad una ricetta che aiuti gli imprenditori italiani a considerare di più le opportunità internazionali come tali e non come qualcosa da temere e non riuscire a gestire? Ma primo, sul tema, diciamo così, della competitività, io grandissime ricette, anche nell'attenta, se vuole anche più attenta lettura di questi giorni, che per me non sono romani, dei giornali, anche di alcuni osservatori particolarmente acuti ed intelligenti, una ricetta vincente, nazionale e internazionale, non mi sembra di averla letta. Credo che, e qui vado alla seconda parte della mia risposta, credo che per riuscire a rendere il più possibile competitive le nostre imprese all'estero ci siano un mix di di misure o di rafforzamento di misure già prese che sul quale noi possiamo investire. La questione fiscale, diciamo, la do per letta, nel senso che credo che su questo noi ci giochiamo effettivamente anche il futuro economico del nostro paese, ma io credo per esempio che ci sia un tema di modernizzazione dei sistemi produttivi, dell'organizzazione aziendale, sul quale noi abbiamo ancora qualche ritardo rispetto soprattutto ai paesi europei, ai paesi occidentali più aggressivi in termini internazionali. Poi noi abbiamo avuto in questi anni un forte sostegno all'export attraverso strutture pubbliche, penso alla riforma dell'ICE che c'è stata, sì. Penso ai piani e ai progetti del Ministero dello Sviluppo Economico di aggressione di alcuni mercati, in particolar modo i mercati che avevano crescite più sviluppate. Queste iniziative vanno sicuramente sostenute e le rifinanzieremo, sì. nella legge di stabilità, ma io credo soprattutto che ci vogliano piattaforme distributive nei paesi che sono in grado maggiormente di recepire i nostri prodotti per quanto riguarda, diciamo così, i prodotti retail, e reti a sostegno della vendita delle organizzazioni di vendita per quel che riguarda invece i prodotti non retail. Detto questo, ci sono anche alcune filiere che o sono solo internazionali, oppure ci sono anche filiere che faranno fatica ad internazionalizzarsi. Penso per esempio all'internazionalizzazione del turismo, che per ovvie ragioni ha bisogno di avere una rete vendita all'estero. Sì, no? La interrompo sottosegretario, sì. Perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Perfetto, va bene, grazie a lei. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a intervistare il sottosegretario al Ministero dell'Economia, Paola De Micheli. Onorevole De Micheli, però una cifra ce la deve dire. La crescita sarà sotto l'1%, perché è chiaro che non raggiungerete l'1,2 che avevate stabilito, però qui si parla addirittura, Confindustria fa una stima dello 0,8 e qui si crea poi la forbice con cui andrete a trattare per l'Europa, insomma si parla di una crescita sotto l'1%. Sì, allora io il numero non sono nelle condizioni di darlo, però sono nelle condizioni di dirle una cosa che non dobbiamo dimenticare quando discutiamo di economia. Intanto, rispetto a 3 anni fa, noi oggi comunque cresciamo e non siamo più nella condizione di recessione che abbiamo ereditato. È poco, è tanto, questo è ovviamente... Sempre uno zero virgola però. È sempre uno zero virgola, ma noi non siamo più in recessione. Per uscire da quella recessione, gli sforzi che sono stati fatti dagli italiani e dai governi sono stati sforzi importanti. Noi dobbiamo continuare a spingere nella direzione della crescita per evitare di perdere l'occasione che noi stessi ci siamo costruiti. È la ragione per la quale la discussione in Europa non può essere legata allo zero virgola di flessibilità, ma deve essere invece legata ad un cambio di passo del modello economico al quale si ispira l'Europa, perché altrimenti a colpi di zero virgola non solo italiani, ma europei, il nostro continente e anche l'unità europea corre dei rischi. Questa, diciamo così, è la preoccupazione vera in termini economici di questo autunno che sta arrivando, consapevoli che il rallentamento dell'economia è soprattutto legato alle condizioni internazionali di forte instabilità, ma anche consapevoli che il continente europeo, l'Unione Europea, ha nelle sue disponibilità una serie di, diciamo così, attrezzi che possono essere molto utili per rafforzare questa crescita e che quindi non tutto passa solo ed esclusivamente dalle decisioni italiane, che comunque, lo ripeto, così come ho detto anche all'inizio di questo nostro incontro, sono sicuramente impegni e decisioni che spingeranno al massimo verso misure di maggiore competitività e direzionate verso la crescita. Penso anche e soprattutto all'allargamento della base occupazionale, perché prima lei mi ha fatto alcune domande rispetto al mercato internazionale, ed è tutto evidente che i mercati internazionali sono un approdo fondamentale per le nostre imprese, ma anche continuare a sostenere il mercato dei consumi interni, allargando la base occupazionale, facendo in modo che tante centinaia di migliaia di persone che sono state espulse dal ciclo del lavoro, che quindi non hanno un reddito sufficiente per avere degli alti livelli di consumo, rientrino a lavorare, non solo per una questione ovvia, diciamo così, e giusta di dignità e di realizzazione personale, ma anche per una questione macroeconomica, perché più allarghi la possibilità di consumare internamente e più evidentemente le aziende riescono a vendere. Credo che insieme alle misure sulle tasse la questione dell'occupazione sarà l'altro faro che guiderà la legge. Allora possiamo chiedere all'onorevole De Micheli se ha senso la proposta del prefetto Morcone di assegnare lavori socialmente utili ai migranti, perché qualche analisi questa mattina anche sul Sole 24 Ore analizza anche proprio questo aspetto, a prescindere dalle considerazioni di natura politica che lasciamo da parte, onorevole De Micheli, ma dal punto di vista proprio occupazionale, lei questo pensiero lo disdegna? No, guardate che non c'è competitività, non c'è competizione tra l'ipotesi che ha fatto il prefetto Morcone, che sta svolgendo un compito particolarmente delicato, importante, con grande professionalità, e il lavoro, diciamo così, nel senso più proprio del termine, da parte di soggetti italiani, di eventuali disoccupati che possono essere remessi nel sì, questo nel lo dicono in molti. Non c'è competizione, anche perché chi vive, diciamo così, la quotidianità dell'Italia di tutti i giorni sa che ci sono tantissimi lavori e lavoretti che magari non occupano le 8 canoniche ore giornaliere, ma che possono essere fatti più, diciamo così, con un atteggiamento di servizio che con una necessità. Lo spirito della restituzione dei costi di assistenza è stato detto, appunto. Diciamo che questa idea di Morcone, oltre a rientrare diciamo così in questi valori, credo che sarebbe particolarmente utile anche per dare un primo approccio a questi profughi che arrivano in Italia ed in Europa di quelle che sono le nostre regole di convivenza, e perché credo che se il loro obiettivo è quello di rimanere in Europa e in Italia, beh, insomma, deve essere chiaro che si vive così nel nostro paese, e si vive rispettando quelle regole e vivendo in quel modo. Francesco Daveri è docente di scenari economici all'Università Cattolica di Piacenza. A lei chiedo: come farà il governo a strappare più flessibilità all'Europa? Secondo i giornali stamattina si dice che il premier Matteo Renzi, quando incontrerà la cancelliera Angela Merkel, sarà più flessibile a una Brexit più lenta, in modo da evitare scossoni all'economia tedesca, per ottenere più flessibilità che poi interessa anche a François Hollande, è così? Ma queste sono considerazioni di natura politica su cui non è che uno possa dare da fuori, se uno sta fuori dalle stanze della politica non è che si possa dare un'opinione su questo. Credo che il governo italiano dovrà giocare le sue carte sul fronte economico prima di tutto, per cercare di capire da dove viene la maggiore flessibilità all'interno delle regole esistenti, può venire la maggiore flessibilità all'interno delle regole esistenti. È chiaro che si potrebbe beneficiare da un'Europa che sia meno concentrata sui decimali, come invece è avvenuto per esempio nel 2011-2012, negli anni dell'austerità e del rigore più stretto. Però per il momento le regole europee sono ancora più o meno quelle, abbiamo solo che l'interpretazione di queste regole che viene offerta dalla Commissione europea che ha come presidente Juncker è diventata un'interpretazione più flessibile, che ci ha già garantito nei 2 anni precedenti di fare più deficit di quanto sarebbe stato dettato dall'applicazione rigida di queste regole, e credo che il governo Renzi debba procedere in questa direzione. Poi se cambia qualche cosa in Europa tanto meglio, però per il momento le regole sono quelle, cioè sempre il 3%, e l'idea che il debito debba essere sostenibile e che debba calare in proporzione rispetto al PIL, cosa su cui peraltro il governo si è impegnato già nel 2016, anche se non credo che nel 2016 questo obiettivo verrà raggiunto. Quindi all'interno di queste di questa situazione, che è sempre di vincoli abbastanza stringenti, si può provare a fare, credo, una cosa abbastanza simile a quella che è stata fatta negli anni precedenti, ovvero sia, dato che c'è un andamento tendenziale del deficit per il 2017, cioè a legislazione vigente che parla di un 1,8%, il limite del 3%, sono cambiate alcune condizioni, quindi questo 1,8, anche senza metterci dentro nuove misure di politica economica, probabilmente non sarà più 1,8 ma sarà un po' più grande, perché la crescita è minore, quindi vuol dire minore entrate fiscali, vuol dire maggiore spese di carattere sociale nel caso in cui appunto la crescita sia inferiore, però da qui al 3%, dall'1,8 al 3% lo spazio è ancora abbastanza ampio. Secondo lei che cosa succederà? E quindi mi aspetto che il governo faccia esattamente come ha fatto negli anni scorsi, ovvero sia sforerà un pochettino mostrando all'Europa che siamo capaci di ridurre il deficit nel 2017 al di sotto di quello che sarà nel 2016. Per ora il dato per il 2016 è 2,3, quello che è scritto nel DEF dell'aprile scorso. Sarà un po' più alto di così se c'è meno crescita, potrebbe arrivare a una roba come 2,5 anziché 2,3 o 2,4, e quindi quello che il governo potrebbe fare è fare un 2,2, insomma qualche cosa sotto al deficit che viene registrato quest'anno. Questo penso che sia una cosa che non darebbe tanti problemi in Europa. Se vuol fare qualcosa di diverso, allora ci sarà da negoziare, penso in modo molto più muscolare. Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia, buongiorno. Buongiorno. Allora, Matteo Renzi ieri ha promesso meno tasse per tutti, che era un po' lo slogan di Silvio Berlusconi negli anni passati. È uno slogan che vi ha rubato la scena, vi ha rubato la scena. Un milione di posti crede? Di lavoro. È un milione di posti di lavoro, come ricorda anche la collega Rosciani. Qual è la ricetta di Forza Italia e che cosa pensa? Riuscirà Renzi a ottenere più flessibilità dalla Merkel? Allora, guardi, io penso che meno tasse per tutti sia uno slogan valido ancora, che deve essere applicato, nel senso che è importante per noi effettuare in primis una detassazione sugli investimenti, ma non solo gli investimenti pubblici, come ho visto per quanto riguarda le infrastrutture, che già le considero di default da dover sviluppare, visto che l'Europa ci dà anche soldi per la banda larga, per i treni, per i nuovi aeroporti e via dicendo, ma anche investimenti privati, cioè noi dobbiamo assolutamente detassare coloro che vogliono reinvestire e vogliono cercare di investire ancora di più nelle loro aziende. Dall'altra parte il tema della flessibilità. L'Europa, come ha appena detto il professore, ha già dato flessibilità, nel senso che rispetto agli anni 2011-2012 sia il Parlamento europeo sia la Commissione si sono espressi più volte a favore di andare oltre quei parametri rigidi. C'è un dato da analizzare. Io davanti a me ho dei dati di Eurostat che preoccupano un po', nel senso che l'Italia ha una crescita dello zero, quindi non possiamo neanche definirla crescita o decrescita, ma tutti gli altri paesi europei sono in crescita. Cioè, quindi il dato che verrà posto sul tavolo dei commissari, perché qui la scelta non è solamente esclusivamente di Juncker, è il fatto che ad esempio la Grecia ha una crescita dello 0,3, la media europea è dello 0,4, l'unica che non cresce come noi è la Francia. Premesso che con tutto quello che è successo, gli attacchi terroristici, ci si aspettava dalla Francia anche una decrescita e questa non è avvenuta. La Spagna ha uno 0,7, quindi il fatto della flessibilità, quando si viene a chiedere, lo si confronta anche con le situazioni di altri stati membri, quindi non è un discorso solo nazionale. Sul fatto della Brexit, che ho sentito precedentemente, non è che la Merkel prende e decide, noi otteniamo la flessibilità, e quindi il fatto che si possa ritardare il negoziato Brexit, che l'Italia sia a favore o non cambia assolutamente nulla, perché ahimè hanno tutto in mano gli inglesi più o meno decideranno a dicembre di iniziare i negoziati, e quindi che noi possiamo essere a favore o no, onestamente poco cambia, perché il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro. Ho una ultima domanda, Elisabetta, per l'onorevole De Micheli, che poi so che dobbiamo salutare, salutando anche quegli ascoltatori che ci danno delle giornaliste, forse si rivolgevano a me. Renziane, ecco, Renziane, esatto, allora proseguiamo pro Confindustria, esatto. Sì, però allora, diciamo una cosa, che ovviamente è uno show in progress, quindi poi diamo la parola al governo, poi diamo la parola all'opposizione. Esatto, e quindi proseguiamo su questa strada per far contenti anche coloro a cui piace, come dire, dare sempre queste folcloristiche espressioni del loro pensiero. Onorevole De Micheli, l'ultima domanda che le volevo fare era su un tema che invece ci preoccupa particolarmente. Qualche volta portiamo avanti anche queste interviste, lo dico anche dal punto di vista giornalistico, parlando degli argomenti come se fossero tutti dei comparti appunto a sé stanti e non intrecciati. Il tema bancario invece si intreccia molto strettamente a tutti gli argomenti che abbiamo toccato fino a questo momento. Abbiamo definitivamente risolto il tema del pacchetto delle sofferenze in pancia alle banche italiane. Quanto vi preoccupa in questo momento questo argomento, insomma? Ma questo tema delle banche innanzitutto continua ad essere attenzionato dal governo, proprio perché ci sono ancora situazioni da risolvere e da affrontare. Certo è che gli ultimi provvedimenti che sono stati assunti hanno, diciamo così, segnato la strada della soluzione definitiva rispetto alle sofferenze, sia in termini, diciamo così, di aggiornamento delle norme fallimentari, che in termini più propriamente di natura finanziaria. Rilevo che, essendo questo un dossier bollente, anche in termini, visto che avete qualcuno che scrive sul renziano o non, io rimango, diciamo così, su temi di governo, credo che il coraggio di mettere le mani seriamente sulle questioni legate alle banche sia stato un coraggio che forse non è stato sufficientemente valorizzato, perché la riforma delle banche popolari, la riforma delle banche di credito cooperativo e appunto l'intervento sulle sofferenze, interventi che comunque hanno anticipato anche condizioni di crisi, sono state delle scelte politiche ben precise che andavano esattamente nella direzione che dicevamo, di cui parlavamo all'inizio di questa trasmissione, e cioè nella direzione di rendere tutto il sistema più competitivo, perché è del tutto evidente che delle banche sane consentono alle imprese di affrontare investimenti e aggredire il mercato in maniera più consona, in maniera più propria. Ecco, questa scelta che è stata fatta dal nostro governo di mettere in discussione tutto quello che era il sistema bancario per riformarlo profondamente, sta arrivando, diciamo così, a regime. Io credo che i benefici già dal 2017, proprio nell'ambito del sistema bancario e del rapporto che il sistema bancario ha con le imprese, dovrebbero incominciare a vedersi in maniera molto più evidente. Senta, sottosegretario, flash, l'ultima domanda: sarà sotto i 30 miliardi la manovra economica? Lo so, almeno questo ce lo può dire. Beh, insomma, io ripeto, ma anche per questioni di ufficio, sotto i 30 molto, miliardi, speriamo, sono no? Molto, sono molto, no, spicciolo, sono molto prudente, sono molto prudente. Di sicuro c'è che le cose che noi stiamo dicendo in questi giorni, cioè quelle che sono le nostre priorità, tasse, competitività e lavoro, continueranno ad essere le nostre priorità. Vabbè, qualunque sia il numero. Noi speriamo, okay, sotto i 30 miliardi, perché già 30 miliardi è una manovra mostra. Esatto, non è esattamente una passeggiata di salute, ma vedrete che con il lavoro quotidiano e con la prudenza che ci contraddistingue arriveremo agli obiettivi che ci siamo prefissati. Francesco Daveri, docente di scenari economici all'Università Cattolica di Piacenza, si preannuncia quindi un autunno caldo per il governo. Quanto incide il referendum sull'economia? Ma il referendum di per sé inciderebbe abbastanza poco, perché le cose di cui si parla nel referendum sono delle cose che riguardano il funzionamento del sistema, così, insomma, costituzionale nel suo insieme, che è molto più ampio rispetto all'economia. Quindi, tra tutte le riforme che sono state messe in campo in questo periodo e quelle che devono essere ancora completate, le riforme costituzionali sono quelle che forse hanno un effetto più piccolo e meno diretto sull'economia. Detto questo, però, poi il governo ha dato un significato da giudizio fondamentale sulla propria attività a questo referendum, quindi in caso di mancato successo del fronte del sì, non si possono escludere degli effetti in termini di rallentamento proprio del processo delle altre riforme, che sono quelle che potrebbero dare invece potrebbero concorrere a dare una svolta all'economia, come il completamento della riforma della pubblica amministrazione, quella del diritto fallimentare, varie altre cose che sono ancora sul tappeto, e forse più importante delle quali è una riforma fiscale che riguardi l'IRPEF e non invece l'IRES, ecco, che sia in termini di riduzione delle aliquote, e che però nello stesso tempo affronti il tema che è sempre posposto e rinviato al futuro, che è quello della disboscamento della giungla delle detrazioni e deduzioni. Quindi ridurre le aliquote insieme a una semplificazione del sistema fiscale sarebbe una riforma che avrebbe un effetto sull'economia, però sono tutte cose che sono politicamente difficili da portare avanti, e sicuramente un no al referendum, una vittoria del no al referendum, renderebbe più complicato attuare queste cose. Lara Comi, voi voterete no al referendum? Sì, confermato? Guardi, è confermato, voteremo no. La campagna che io sto portando avanti non è quella pro o contro Renzi. Infatti, secondo me, il fatto di personalizzarlo è stato un grandissimo errore, perché qui bisogna pensare agli italiani in primis e non quello che può essere un personalismo. Detto questo, ci sono due punti che onestamente possono essere i capisaldi della campagna del no. Il primo è quello del Senato. Io sono abituata ad avere una Camera sola, ovvero il Parlamento vota, e quindi non c'è un ping pong costante da un punto di vista legislativo. Quindi se una riforma va fatta una riforma con una cancellazione totale del Senato. Primo, perché i sindaci e i consiglieri regionali non hanno fisicamente il tempo, se fanno bene il loro lavoro, a essere anche presenti a Roma. Li vediamo impegnati tutti i giorni sul territorio. Secondo, perché risulta ancora una struttura farraginosa. Dall'altra parte il federalismo. Io ritengo che il concetto del merito e della meritocrazia sia un elemento importante anche all'interno delle nostre regioni. Centralizzare alcuni elementi importanti, tra i quali abbiamo il concetto delle infrastrutture, tra i quali possono essere l'aspetto della sicurezza, soprattutto in questo momento, sia sbagliato. Quindi lei dice no al federalismo? No, io dico sì al federalismo, in questo caso la riforma. Cioè no al centralismo previsto, esatto. Al ripristino, sì, del centralismo, sì, previsto nella riforma. Le do una spiegazione anche europea. Noi stiamo portando avanti la cosiddetta unione delle regioni, ovvero cercare di effettuare delle alleanze con delle regioni molto simili tra loro, ad esempio la Lombardia con il Baden-Württemberg, con il Rhône-Alpes, in modo tale che anche i finanziamenti possano avvenire non più centralizzati con lo Stato, ma bensì regionali. Abbiamo anche un altro ospite che si è aggiunto, no, al nostro ricco parterre di questa mattina, Elisabetta, l'onorevole Stefano Fassina, deputato, economista, già viceministro dell'economia, al quale naturalmente non possiamo non chiedere qual è la sua idea invece di manovra di stabilità, che è il nostro tema portante di Ma cos'è quest'estate di stamattina. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. La manovra di stabilità dovrebbe innanzitutto affrontare un piano europeo, mi pare sempre più evidente. Le linee di politica economica che arrivano da Bruxelles sono linee che poi alla fine inducono a una stagnazione che riguarda tutta l'Eurozona. I dati del secondo trimestre sono molto preoccupanti per l'Italia, ma lo stesso smorzamento di entusiasmi riguarda tutta l'Eurozona. Quindi prima di impostare la manovra italiana bisognerebbe fare un discorso molto chiaro. Il vertice previsto per lunedì prossimo a Ventotene, sì, dovrebbe servire a mettere in evidenza che così non si va avanti se non in un trascinamento anemico, dove più o meno soffrono tutti i paesi. Ormai sono 8 anni e l'Eurozona è l'unica realtà globale che sta ancora di sotto del livello del PIL del 2008, quindi bisognerebbe impostare una strategia europea di sostegno agli investimenti, smettere di mercanteggiare lo 0, in più sul deficit che appunto trascina una realtà sempre più esangue, ma non riesce a dare quella energia necessaria alla svolta. E dovrebbe essere fatto un discorso molto chiaro alla Germania, che con attivi commerciali così elevati genera, esporta depressione in tutta l'Eurozona. Sì. Questo discorso però mi pare sia largamente assente, mi preoccupano i commenti di questi giorni un po' ovunque sui giornali italiani, dove appunto prima, nei scorsi 6 mesi, si è esaltata la capacità del governo di far ripartire l'economia, mentre era semplicemente frutto della politica monetaria della Banca Centrale Europea, e oggi invece si ritorna a sottolineare la carenza e la necessità di impostare una finanziaria di svolta. Senza affrontare i nodi europei la svolta non vi sarà. Dopodiché in un quadro in uno spazio di manovra molto ristretto è evidente che si possono fare cose diverse. Il governo dovrebbe puntare su una strategia triennale di rilancio degli investimenti pubblici, perché il problema nostro fondamentale è la carenza di domanda. Mentre mi pare che può accompagnarsi anche ad un piano di riduzione delle tasse, se sì dove, onorevole Fassina, e come? Il punto è che il piano di riduzione delle tasse dovrebbe essere concentrato, a mio avviso, dove ci può essere più sostegno alla domanda, quindi sulle fasce di reddito più basse, e dovrebbe essere concentrato su investimenti innovativi, quindi circoscritto, mentre mi pare che prevalga ancora una volta una torsione elettorale dell'impostazione, per cui interventi a pioggia per cercare un consenso più largo, che però non riesce poi a determinare l'impatto sull'economia reale che sarebbe necessario. Sulla crescita. Senta, una domanda però alla Racomi e poi all'onorevole Fassina, perché riguarda gli scenari politici. Il governo ombra porta sfortuna, Forza Italia contro Parisi. Insomma, c'è questa diatriba ancora, non avete un leader dopo Silvio Berlusconi? Ma perché dopo Silvio Berlusconi? Berlusconi è presente. Ha un'età del Berlusconi, anche no? Mi ha venduto il Milan ai cinesi. No, lei dice sempre. Vabbè, magari come padre fondatore. Stefano Parisi, le piace o non le piace? Sì o no? Guardi, perché siamo in chiusura. Ma c'ha ancora 4 minuti per campagna elettorale. Guardi, 4 minuti parla Juncker. No. Onorevole Comi, le piace questa idea di Stefano Parisi che prenda un po' il timone in mano di Forza Italia e che ricostruisca un centrodestra che altrimenti rischia di essere spazzato via? Guardi, a me piace il contributo di tutti, nel senso che una persona sola non è in grado di ricostruire Forza Italia, e quindi va bene il contributo di più persone. Mi piace l'idea delle primarie, assolutamente, perché è bene che se Berlusconi dovesse decidere di non essere più leader di Forza Italia, ma quindi del centrodestra, a questo punto è bene che ci sia un possiamo dire coordinatore a questo punto a livello nazionale, che possa essere scelto dalle primarie e quindi dai nostri elettori. Questo mi sembra il metodo che ci chiedono anche i nostri militanti. Non è una richiesta, secondo me, dei dirigenti, anzi è una richiesta più dei militanti. Stefano Fassina, la cosa rossa non decolla, ma se talvolta Renzi promettesse, dopo la prima lettura della legge di stabilità, dopo magari il sì al referendum, di cambiare l'Italicum e di dare un premio di coalizione e non di lista, voi vi ammorbidereste la vostra posizione sul referendum? No, perché guardiamo innanzitutto gli interessi generali. La revisione costituzionale oggetto del referendum, unita alla legge elettorale, determina un quadro molto preoccupante per la nostra democrazia, e in ogni caso le distanze programmatiche con il PD sono siderali, a cominciare dalle politiche per il lavoro, sulla scuola, sulla finanza pubblica, come ho provato a dire prima. Il PD è pienamente dentro quella che è l'ortodossia economica liberista, con tutti i disastri che continua a produrre. Noi riteniamo che sia necessaria una svolta keynesiana, che vada affrontata innanzitutto a livello europeo, che basta con questi mercateggiamenti a ribasso sulla flessibilità che, che non portano a nulla, ma c'è bisogno di una radicale discontinuità nella politica economica a partire dagli investimenti. E avendo ascoltato anche qualche suo ospite prima che diceva il no, basta strumentalizzare i referendum a fini del sostegno al governo. Se vince il no, l'Italia va avanti, trova un altro quadro politico e non è la catastrofe. Non è la catastrofe, insomma, ce la caveremo. Io ringrazio Francesco Daveri, docente di scenari economici all'Università Cattolica di Piacenza, Lara Comi, europarlamentari di Forza Italia, Stefano Fassina di SEL, e soprattutto ringrazio Deborah Rosciani cui passi simpaticamente il testimone in pieno clima olimpionico, no? Certo, facciamo la staffetta. La nostra staffetta che da lunedì condurrà, esatto. Ma cos'è quest'estate? Vi aspetta alle 8, intanto ti lascio proseguire la trasmissione, Elisabetta. Grazie, buona giornata. Grazie e linea al giornale. Ma cos'è quest'estate? 6 mesi di condizionale. A maggio le femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. E noi cambiamo argomento perché abbiamo sentito Canapa e introduciamo l'argomento di questa seconda parte, che è appunto l'apertura di Raffaele Cantone, magistrato e presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla cannabis. Cantone, che abbiamo intervistato ieri, ci ha raccontato che cosa intende. Noi gli abbiamo proprio chiesto, ha parlato di legalizzazione intelligente, che cosa significa? Ma prima di tutto io ci tengo a dire che ho una posizione titubante, nel senso che se in passato io ero assolutamente contrario a ogni forma di legalizzazione, adesso ho un po' cambiato posizione. Credo che si possa aprire una discussione su questo argomento, credo che ci siano argomenti che possono essere favorevoli e non l'argomento che in questo modo si crea danno particolare alle mafie, perché io sono d'accordo con quelli che anche in queste ore stanno dicendo che lo spaccio di droghe leggere rappresenta un affare minore per le droghe. Io credo che questo sia utile soprattutto per evitare il contatto fra giovani, e quando parlo di giovani parlo sempre di maggiorenni, ovviamente non mi pongo il problema dei minorenni, qui sarebbe interdetta anche la droga legale, fra giovani e ambienti dello spaccio, e comunque quello di una droga che sia eventualmente non oggetto di interventi chimici. Io credo che una legalizzazione intelligente sia quella che affidi ad un organo pubblico la vendita, un organo controllato, e che sia anche, diciamo, di anche garanzie soggettive, e che ovviamente preveda limiti molto forti e la preclusione assoluta ai minorenni. Lei ha visto che però ci sono delle reazioni molto negative. Il ministro Costa del Nuovo Centrodestra dice assolutamente di no, e anche lo stop di Gratteri, il PM, ecco, il magistrato Gratteri. A che cosa risponde a queste persone che insomma sono piuttosto negative rispetto alla sua proposta? Ma guardi, io credo che si tratti di un argomento di talmente delicato che sia assolutamente fisiologico che ci siano posizioni contrarie. Rispetto alla posizione di Costa e la posizione di Gratteri, devo dire che questo è un tema che anche dal punto di vista mondiale vede posizioni completamente diverse, e quindi nessuna meraviglia, grande rispetto. L'argomento utilizzato da Gratteri io lo condivido, perché io non sono assolutamente dell'idea che bisogna legalizzare la droga per evitare di far guadagnare soldi alla criminalità organizzata. Sono consapevole come lui che la criminalità organizzata ha un guadagno irrisorio dalle droghe leggere. Gli argomenti che io provo ad utilizzare sono argomenti diversi, e comunque credo che sia assolutamente importante una discussione su questo tema. Io ne aggiungerei un altro, cioè io credo che questo sia un argomento su cui provare a fare una riflessione a un livello più ampio, che non sia quello nazionale, anche a un livello europeo, per provare a stabilire una serie di regole comuni che potrebbero essere applicabili nell'intera Europa, anche per evitare il paradosso di legislazioni che in qualche modo comunque hanno a che vedere con la salute, sono completamente diverse da Stato a Stato, e non si parla solo degli effetti, diciamo, di penalizzazione, anche della possibilità di acquistare per esempio in Olanda con una certa libertà sostanze stupefacenti, cosa impedita in altri Stati europei. Senta, ma invece legalizzarla all'interno dell'Unione Europea per scopi terapeutici? Io credo che quello degli scopi terapeutici sia, diciamo, un dato su cui ci siano obiettivamente molto meno dubbi. Una legalizzazione che sia accompagnata da una prescrizione medica credo che non dovrebbe essere assolutamente normale. Se la cannabis controllata può servire a creare vantaggi soprattutto per alcune malattie particolarmente delicate, tipo neurologico, anche per malattie di tipo tumorale, credo che sarebbe assolutamente giusto e corretto, ma lì stiamo parlando di una prescrizione che richiederebbe una prescrizione medica. La legalizzazione invece consentirebbe un utilizzo sia pure molto controllato al di là delle prescrizioni mediche. Lei non crede che la cannabis poi influenzi i giovani oppure abbia provochi assuefazione? Io su questo non ho risposte, infatti io non ho, diciamo, certezze assolute. Io su questo punto purtroppo evidenzio un dato, come gli scienziati, i medici su queste posizioni hanno posizioni completamente divaricate. C'è chi parla, diciamo, di danni assolutamente insignificanti, chi parla di danni molto, molto rilevanti. Questo bisognerebbe che, diciamo, la scienza ci desse anche risposte più chiare, perché poi io credo che quella sia la vera discriminante per aprire rispetto ad una operazione di questo tipo, cioè capire il livello di pericolosità e il livello di assuefazione, di dipendenza che può portare. Ma mi chiedo, ed è questa una delle mie principali preoccupazioni, io diciamo so che, ed è anche stato più volte detto, che anche le droghe leggere vengono trattate chimicamente, in qualche modo vengono trattate proprio per creare una maggiore dipendenza. Questo è vero, a maggior ragione questo potrebbe essere un argomento per provare a una legalizzazione che non significa liberalizzazione totale, ma significa possibilità di evitare al contrario che ci sia, diciamo, un utilizzo sempre più da parte dei giovani. E poi un'altra cosa, e qualcuno dice in questo modo noi abituiamo i ragazzi e li facciamo passare le droghe pesanti. Commento anche questo, diciamo, molto suggestivo. Però io non so fino a che punto è vero, perché io credo che il vero rischio di un passaggio alle droghe pesanti sia proprio nel fatto, diciamo, del circuito illegale. Quante volte abbiamo sentito raccontare che proprio attraverso il circuito illegale gli stessi spacciatori a un certo punto propongono ai ragazzi il passaggio a droghe diverse, a droghe sintetiche o a droghe più pesanti. Quindi anche sotto questo profilo l'argomento di chi dice che in questo modo si creerebbero le condizioni per una maggiore assuefazione alle droghe pesanti, io credo non sia un argomento del tutto vero. Però ripeto, io credo su questo punto bisogna avere laicamente il coraggio di aprire una discussione. Io stesso avevo idee completamente diverse, in parte le ho cambiate, e credo che la discriminante vera dovrebbero essere le risposte che vengono dal mondo sanitario. E questo era Raffaele Cantone, magistrato e presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che abbiamo intervistato ieri. Carlo Giovanardi, senatore di Idea. Un attimo che dobbiamo lanciare gli sms 349-238-6666, i numeri per i vostri sms, 800-24-0024 il numero verde per le vostre chiamate. Carlo Giovanardi, abbiamo sentito Cantone che si fa delle domande e però apre poi a questa sperimentazione. Qual è la sua idea? Ma io sono veramente sconcertato dire poco, perché Cantone ammette con Paolo Borsellino che la legalizzazione della cannabis non danneggia per nulla la criminalità organizzata. I dati degli Stati Uniti, recentemente pubblicati dalla rivista Esquire, dimostrano che è aumentato in misura i traffici sulla cocaina, sull'eroina, della criminalità organizzata. La devo interrompere perché si sente male, allora. Però la richiamiamo. Arturo Scotto, intanto, di SEL, che è in linea con noi. Abbiamo sentito un Cantone però che si fa che lancia dei dubbi, dice bisogna aprire la discussione, non è che proprio dice attenzione, adesso sperimentiamo la cannabis, vediamo che cosa succede. Ma innanzitutto è un fatto importante che un giudice come Raffaele Cantone, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ponga dei quesiti e ammetta anche che rispetto a idee che considerava consolidate fino a qualche anno fa, ha fatto qualche passo in avanti, le ha modificate. Lui pone un tema che secondo me è giusto ed è reale. Quando entri nel supermarket della droga puoi trovare la cannabis, puoi trovare le anfetamine, puoi trovare le droghe sintetiche, puoi trovare la cocaina e l'eroina. Occorre spezzare quella catena, occorre rompere quel supermarket che produce un circuito illegale nel quale possono rimanere impigliati tante ragazze e tanti ragazzi. Per cui credo che oggi una discussione laica sulla legalizzazione della cannabis sia attuale e urgente. In Parlamento è depositato un testo di legge, è al lavoro delle commissioni, stiamo subendo un ostruzionismo ideologico e pesante da parte dei settori della destra. Mi auguro che il testo finalmente arrivi alla discussione della Camera a settembre e si possa aprire una riflessione insieme al Paese. Carlo Giovanardi, abbiamo ripristinato la linea, senatore di Idea. Allora, lei chiaramente è contrario, però abbiamo sentito Scotto che ci dice, insomma, tornerà in aula a settembre questo disegno di legge, si può avviare una discussione laica? Giovanardi, la linea non prende, dov'è? Comunque, la sento benissimo. Allora, la proposta di Cantone che dice con Borsellino e con Gratteri che non si toccano minimamente gli affari della criminalità organizzata, anzi negli Stati Uniti abbiamo un'esplosione delle morti di overdose perché la criminalità organizzata si è giuttata sulla cocaina e sull'urina e abbiamo una situazione disastrosa. Allora, qual è la grande novità della proposta? Che propone di dare la cannabis ai minorenni. No, Cantone ha detto che è contrario ai minorenni. No, Cantone ha detto che la sua proposta serve a togliere i contatti dei ragazzi con la criminalità organizzata. Allora, i casi sono due. No, ma nell'intervista che ho fatto io ha detto chiaramente esclusi completamente i minorenni. Allora, se ha esclusi i minorenni, rimane il problema di Borsellino, di Gratteri, che giustamente dice la criminalità organizzata a chi va a offrire la cannabis in maniera illegale, ai minorenni, evidentemente continua a farlo. Quindi la proposta per divertimento di dare ai maggiorenni la facoltà di farci la cannabis e poi se fa un incidente stradale avere fino a 18 anni di galera, perché noi 6 mesi fa abbiamo fatto una legge col plauso generale che dice che si mette alla guida di un'auto o di un pulmino o di un aereo dopo essersi fatto una cannabis rischia fino a 18 anni di galera, perché per definizione chi si fa la cannabis non è in grado di guidare. Ma anche chi beve però. Quindi, infatti abbiamo fatto una legge che 18 anni di galera per cui gli ubriachi, e abbiamo fatto le leggi che proibiscono di fumare nei bar, nei ristoranti, negli ospedali, ovunque, per i danni che dà il tabacco alle terze persone. Quindi questa proposta non è una proposta intelligente, è una proposta che serve a portare il consumo della cannabis da un attuale 3% della popolazione, 2,5%, c'è anche gente che l'ha provato una volta nella vita, a quello del tabacco 20-25%, a creare un'autostrada di pasturazione per il passaggio alla cocaina e l'eroina, come tutte le comunità di recupero spiegano, quelle che sul campo stanno seguendo i 200.000 cronici italiani rovinati dalle sostanze. Quindi peggiorerebbe di gran lunga la situazione sanitaria, la spesa pubblica, non toccherebbe minimamente la criminalità organizzata, anzi, che avrebbe allargato a dismisura il suo mercato. Certo, può far contente le multinazionali del tabacco che si stanno riciclando sulla cannabis. Che sa che in Colorado fanno perfino le cioccolatine e le caramelle alla cannabis da dare ai bambini. Professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, lei è favorevole e contrario alla legalizzazione della cannabis, perché? Guardi, io non sono né favorevole né contrario, nel senso che non è un problema medico quello della legalizzazione, è un problema della società civile ed è un problema del Parlamento e della politica. Io posso dare delle risposte scientifiche, piano medico, certo. Per esempio, è giusto, abbiamo sentito Cantone con l'assuefazione, assuefarsi per gli adolescenti è più facile, capita a un ragazzo su 6, ma se uno fuma tutti i giorni diventa la regola, e questo è perché il cervello dei giovani è più vulnerabile anche ai sintomi di astinenza, quindi vuol dire poi ansia, irritabilità, angoscia e perdita del sonno. Ma questo sulla cannabis e anche sull'alcol, per esempio? Sì, d'accordo. Io vorrei evitare la discussione dell'alcol verso la cannabis, perché Proviamo a essere logici. Uno dice togliamo il divieto dei 130 km all'ora in autostrada perché tanto si può morire anche in aereo. È un argomento che da un punto di vista medico non sta in piedi. Io vorrei dirvi che cosa succede sul piano medico. Certo l'alcol è devastante, ma lo è anche il fumo. L'uso di cannabis, per esempio, interferisce con il rendimento a scuola. Se uno va in motorino dopo aver fumato, ricorre più facilmente in incidenti stradali e i dati che abbiamo a disposizione fanno vedere che questo aumenta anche di 3-7 volte. Anche gli adulti che fumano regolarmente possono subire ansia e depressione, arrivano addirittura a manifestare in certi casi sintomi di schizofrenia, persino a distanza dall'aver assunto regolarmente cannabis. Questo è un dato nuovo molto interessante. C'è un restringimento del calibro delle piccole arterie del cervello che ricordano quelle di chi ha la pressione alta e il diabete. È un ragionamento che ha fatto, molto garbato, che ha fatto Cantone vorrei sapere se è vero che chi assume cannabis poi si rivolge più facilmente ad altre droghe. Questo è stato studiato, è un punto molto controverso. Lo studio però più convincente è stato fatto negli Stati Uniti su 100 milioni di americani. 30 milioni hanno poi provato altre droghe. Bisogna dire che il rapporto causa-effetto tra questi due fenomeni è comunque nella comunità scientifica molto discusso, e soltanto il 5% di quelli che poi, di quei 30 milioni che poi sono passati ad altre droghe, ha usato eroina, per esempio. Poi il problema è molto complesso, perché quando noi parliamo di rendimento scolastico, quando parliamo di ansia e di una serie di problemi legati alla cannabis, noi non possiamo escludere con certezza che le stesse condizioni che hanno portato gli adolescenti a rivolgersi alla cannabis siano quelle che poi sono responsabili di atteggiamenti fragili dal punto di vista psichico. Quindi i problemi sono in linea di massima complessi, però quello che emerge da uno studio molto bello fatto nel New England Journal of Medicine di un anno fa, del 2014 per la precisione, è che ci sono danni associati all'utilizzo di cannabis che non possono essere riparati, minimizzati. Sono danni importanti. La cannabis può portare a malattie mentali, può interferire con il rendimento a scuola, aumenta il rischio di incidenti stradali. Insomma, c'è tutto un contorno, professore. Arturo Scotto, di Sinistra Italiana. Abbiamo sentito il professore che ci dà però dei dati allarmanti. Voi continuate però la vostra battaglia per la legalizzazione della cannabis. Intanto, come ha detto lo stesso professore, esistono diversi punti di vista all'interno della comunità scientifica. Ma io starei al punto politico. Sono 50 anni che viviamo in un regime, definiamolo così, proibizionista, dove l'uso legale della cannabis è stato vietato, non c'è stata nessuna diminuzione del consumo, anzi abbiamo avuto un'esplosione del consumo abbastanza trasversale sul piano generazionale, farei attenzione a parlare solamente dei ragazzi, e che in qualche modo ha alimentato, anche se in numero indubbiamente inferiore rispetto alle droghe più pesanti, i proventi della criminalità organizzata. Ora, io vorrei che in questo paese si potesse discutere in maniera tranquilla del fatto che quelle ricette di proibizione evidentemente hanno fallito e occorrerebbe provare a scrivere una pagina nuova, ovviamente con tutti i controlli, con tutta la serietà e la scrupolosità. Nessuno immagina di poter autorizzare i minorenni ad acquistare in tabaccheria un grammo di cannabis, sarebbe una follia, così come sarebbe una follia immaginare che lo Stato la promuovesse. Occorre mettere in campo un uso controllato della cannabis attraverso gli strumenti che lo Stato ha e che consente anche un maggior controllo, e sottrarre i giovani soprattutto, ma non solo, ripeto, non solo i giovani, dalla frequentazione di un mercato illegale che è molto più ampio rispetto alla cannabis. Se noi non spezziamo quella catena, il rischio che continui la criminalità organizzata ad essere sempre più potente e forte in questo paese è reale. Io non capisco come non si faccia a vedere questo punto. Grazie Scotto. Carlo Giovanardi, il problema non è se la cannabis fa male o non fa male, abbiamo sentito il professore che ci dà dei dati anche allarmanti, ma il problema è spezzare il legame tra criminalità organizzata e giovani. Allora, abbiamo già appurato, mi fa piacere questo, che questa proposta non si rivolge ai minorenni, quindi la criminalità organizzata continuerà a rivolgersi ai minorenni. È chiaro che chi ha 15, 16, 17, 18 anni, visto che non si può legalizzare nei loro confronti, continuerà ad essere oggetto della criminalità che gli venderà la cannabis. Quindi questo obiettivo sicuramente non si raggiunge. Ma l'obiettivo di dire ha fallito il proibizionismo non è assolutamente vero. Ho detto prima che in Italia abbiamo lo 0,1% della popolazione che ha problemi di cronicità con la droga e 3 italiani su 100 che una volta nella vita hanno avuto contatto magari fumando uno spinello. Negli ultimi anni abbiamo avuto un calo notevolissimo della cocaina e dell'eroina, abbiamo il problema della cannabis, ma sempre in questi limiti. Se si legalizzasse lo portiamo a livello del tabacco, cioè 20-25% della popolazione. Abbiamo un fenomeno fortunatamente contenuto e tutti i disastri di cui parlava il professore, voglio ricordare gli 8 ciclisti uccisi in Calabria qualche anno fa, gli 8 travolti l'altro giorno da uno che si era fatto della cannabis, ma chi di noi vorrebbe che il suo figlio venisse portato a scuola al mattino da un autista che si è fatto di cannabis o da un pilota d'aereo? Vabbè, o qualcuno che muove in carrella, ma questa è la realtà. Se noi legalizziamo, riportiamo questa percentuale che è preoccupante ma è limitata, siamo dentro una percentuale del 3%, la portiamo al 25%, quindi pensi un paese in cui il 25% della popolazione fa uso di cannabis, con tutti i problemi di che il professore, e su questo la comunità scientifica è unanime, andate a pigliarvi le neuroscienze e le fotografie del cervello di un minorenne a 18 anni che si è fatto di cannabis da quando aveva 15 anni, c'è i neuroni spenti. Hai neuroni spenti? La interrompo perché ci ha raggiunto Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri ma anche autore della legge, del disegno di legge per la legalizzazione della cannabis, e la introduco, Benedetto Della Vedova, con un radioascoltatore molto divertente che dice: una bella canna ti fa bene, un Campari con gin e prosecco ti distrugge. Quindi perché lei vuole legalizzare la cannabis, Della Vedova? Perché io ritengo, non sono il solo nel mondo, diciamo, che sia un tema politico importante. Ci sono altri temi politici importanti, questo è comunque un tema politico importante. Siamo di fronte a un consumo di massa che riguarda, le statistiche parlano di 3-4 milioni di italiani, che è un consumo nelle mani totalmente di un mercato criminale che produce profitti per le mafie e che genera criminalità. In più, noi impegniamo ogni giorno, ci sono 30 operazioni di polizia, che significa indagini, uomini sul campo e poi significa processi, 30 operazioni di polizia al giorno, comprese Natale e Pasqua, per reati legati alla cannabis. Io credo che sarebbe molto più opportuno in questa fase storica, ma in generale, che anziché avere 30 operazioni di polizia al giorno per una cosa che si rivela inutile, cioè stroncare il mercato della cannabis che nel frattempo continua a crescere, sarebbe meglio usarle per perseguire reati più importanti e di maggior allarme sociale e più gravi per la sicurezza delle persone. Certamente anche dopo la legalizzazione un margine di mercato nero, di mercato criminale può rimanere, ma diciamo che almeno 20 operazioni di polizia al giorno sulla cannabis potremmo toglierle. Questo è uno dei tantissimi argomenti. Chiudo con una considerazione. Negli stati degli Stati Uniti, che sono una grande democrazia pragmatica, negli stati degli Stati Uniti dove hanno legalizzato la cannabis, nessuno pensa che quello sia diventi il paradiso, naturalmente. Però i dati cosa ci mostrano ormai dopo diversi anni? Che non aumenta il consumo in modo significativo. Certo, dagli altri stati chi fa uso di cannabis va in Colorado, nello stato di Washington, dove non rischia la galera, questo produce un aumento del consumo. il mercato nero crolla, se naturalmente si è attenti, come noi pensiamo si debba essere, anche sui prezzi, sulle tasse, a modularle bene, perché il mercato nero reagisce, non ci sono incidenti, non ci sono aumento di criminalità, e in più, cosa non marginale, c'è un controllo vero, che oggi non c'è sulla cannabis che fumano gli italiani, c'è un controllo vero sulle sostanze e ci sono risorse ingenti per il bilancio pubblico. Quindi insomma si è andato verso una situazione migliore. Allora diamo la linea alla pubblicità per ritrovarci subito dopo. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? Noi continuiamo a parlare di cannabis, di legalizzazione. Professor Giuseppe Remuzzi, abbiamo sentito il sottosegretario della Vedova che ci dice che negli Stati Uniti in realtà si è visto che gli stati che l'hanno legalizzata poi hanno favorito una situazione più fluida anche dal punto di vista legale, con meno problemi. Lei ci ha chiaramente illustrato quali sono gli effetti poi della cannabis sulla mente umana. Quello che le volevo chiedere, dalla cannabis è così facile passare le droghe pesanti oppure c'è un connubio cannabis alcol? Quando è che veramente si rischia anche per la salute? Partiamo dall'ultima domanda, c'è un grande potenziamento fra cannabis e alcol, quindi il fatto di aspirare o fumare cannabis e poi prendere alcol potenzia gli effetti sul sistema nervoso centrale del cannabis e i rischi di tutto quello che abbiamo sentito che è collaterale anche dal restringimento delle attese. La sentiamo malissimo, la proviamo a richiamare. Ecco, Benedetto Della Vedova, abbiamo sentito il professore malissimo, ma ci ha dato già una risposta. Ci sono degli studi che studiano l'effetto cannabis alcol, come queste due sostanze quando vengono associate poi generano un effetto maggiore sul sistema centrale. Non avete paura poi che deviate i giovani verso strade sconosciute? Guardi, io su questo dico due cose. Io sono un economista e sul resto leggo e studio. Nessuno di noi, io sicuramente, non ha mai detto che la cannabis faccia bene, salvo che, a differenza di tutte le altre sostanze, l'alcol, il tabacco, ha anche importantissimi usi terapeutici e finalmente oggi tutti sono a favore anche della cannabis terapeutica. Nessuno di noi ha mai detto che la cannabis faccia bene o che si debba incentivarne l'uso. Tutto quello però che si dice sui rischi, sulla cannabis, i policonsumatori, l'alcol mischiato ad altre sostanze, eccetera, è la realtà terribile di oggi. Ad esempio, io penso che in un quadro di legalizzazione il contrasto al consumo minorile e degli adolescenti sia molto più credibile di quello di oggi. Oggi il contrasto al consumo degli adolescenti e dei minorenni è uguale a zero, gli effetti sono zero, basta girare per le scuole di qualsiasi paese o città italiana. Noi riteniamo, sulla scorta anche dell'esperienza dei paesi analoghi all'Italia dove è stata legalizzata la cannabis, che il contrasto all'uso da parte dei minori sia molto più efficace, al 100% non ci arriveremo mai, sia molto più efficace in un regime di legalizzazione che non oggi, dove il risultato è zero. In più, aggiungo, nella nostra legge prevediamo che il 5%, poi possiamo andare al 10%, ma comunque sono soldi che non ci sono mai stati stanziati fino ad oggi per le campagne di contrasto all'uso e all'abuso e di informazione e dissuasione dall'uso e all'abuso di queste sostanze. Noi prevediamo nella nostra legge che il 5% degli introiti complessivi, stiamo parlando di somme rilevantissime, vengano usati per campagne serie a partire dalle scuole, per spiegare i danni, gli effetti, soprattutto in età per i minori. Tutte cose che si sa perfettamente che bisogna fare, che noi vogliamo fare seriamente, ma ripeto, il punto non è che si può dire con la legalizzazione chissà cosa succede, il punto è quello che sta succedendo oggi. E cosa facciamo? Proseguiamo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, spendendo soldi, usando polizia e consegnando milioni di italiani nelle mani della criminalità, o proviamo a cambiare registro, visto che ci sono esperienze? Faccio solo questi ultimi due esempi: stato di Washington ha legalizzato, è lo stato dove c'era Microsoft, la California legalizzerà presumibilmente, fanno il referendum a novembre, è lo stato della Apple, di Google, di Facebook, di Twitter, è il pezzo più vibrante dal punto di vista economico e promettente degli Stati Uniti, non hanno nient'altro da fare che legalizzare la cannabis. Chiaro, no, sanno che è una misura di buon governo e lo fanno. Chiaro, grazie a Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato agli affari esteri, professor Giuseppe Remuzzi, abbiamo ricostruito la linea, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Lei ci stava parlando degli effetti anche sugli adolescenti del mix terribile tra cannabis e alcol. Sì, certo, quando noi legalizziamo apriamo questo mercato e naturalmente dobbiamo tener conto che ci sono anche queste situazioni. Per esempio, tanti dicono il cancro del polmone, il rischio è inferiore a quello del tabacco. Potrebbe essere vero, bisogna calcolare che chi fuma cannabis però rischia di più delle persone normali di avere polmoniti, anche perché la marijuana compromette il sistema immune degli organi della respirazione, rischia di più di avere infarto del cuore e ictus del cervello, anche se è molto difficile dal momento che queste persone di solito fumano, assumono marijuana, fumano tabacco, di solito abusano anche alcol, distinguere tra i vari fattori. Una cosa molto curiosa che è successa in questi giorni e dà un'idea di come gli effetti della legalizzazione possono essere imprevisti è quello che succede coi bambini piccoli, proprio nello stato a cui faceva riferimento il sottosegretario prima della vedova. Nel Colorado fanno i biscotti e le caramelle con la cannabis. Quello che succede è che nonni, mamme, genitori, fratelli più grandi li lasciano in giro nelle case e questi bambini che prendono biscotti e caramelle finiscono in ospedale in una percentuale molto molto più alta di quanto non succedesse prima. Questo naturalmente uno può dire stiamo attenti, però dà un'idea di come quando noi apriamo poi gli effetti imprevisti di potenziamento con altre sostanze ricreative che sono nocive. Professore, sappiamo che negli Stati Uniti vengono lasciate anche le armi, no? E quindi i bambini certe volte, cioè nel senso che negli Stati Uniti ci sono delle cose abbastanza particolari. Senta, però è curioso quando ecco, un'altra cosa che io penso sia molto importante per il Servizio Sanitario Nazionale e che andrà discusso, di nuovo io non voglio prendere posizione su cosa debbano fare i politici, però bisogna discutere molto profondamente questo aspetto. Può lo Stato guadagnare distribuendo malattie quando abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale? La risposta è ovvia, lei lo sa che la risposta è ovvia, perché lo Stato guadagna sui pacchetti di sigarette, lei sa che lo Stato guadagna anche sulla tassa sull'alcol, quindi infatti non deve succedere questo è il mio punto. Lo Stato non può guadagnare distribuendo malattie, lo Stato non può guadagnare sui pacchetti di sigarette, lo Stato non deve guadagnare sulla cannabis, perché è una grande contraddizione uno Stato che guadagna distribuendo malattie e poi cura le stesse persone che lui ha fatto ammalare, con l'argomento che utilizzano, l'abbiamo sentito stamattina, non ricordo chi ha usato proprio questo argomento, in fondo alla fine mettiamo a posto anche un po' le finanze dello Stato. Questo è molto brutto, cioè l'idea che noi facciamo ammalare delle persone, perché su questo purtroppo non c'è discussione. Senta, ma lei ha visto questa campagna sul fumo, sui pacchetti di sigarette, il fumo fa male eccetera, gli italiani hanno già previsto di mettere poi questi famosi pacchetti dentro delle copertine, perché così almeno non vedono queste scritte, quindi lo vede che poi chi ha quel vizio è difficile, no? Che ci rinunci. No, d'accordo, però io credo che dobbiamo uscire dall'idea che lo Stato debba da una parte distribuire malattie e d'altra parte curare le malattie. Questa insomma è una grossa contraddizione. Lo Stato deve decidere, i politici devono decidere se per loro è importante la salute dei cittadini o ci sono delle altre considerazioni di tipo economico che sono eventualmente più importanti. Questo penso che è una riflessione che fa parte di quella discussione che diceva Cantone dobbiamo avviare. Io penso che la discussione sia debba essere molto profonda, ma soprattutto la discussione deve basarsi sui dati. Io, se devo dire, questa mattina ho sentito dire molte cose che si dicono, si sente, si sa, però di dati non ne ho visti moltissimi. I dati non sono poi così terribilmente allarmanti come uno può pensare, però sono dati di cui bisogna tener conto. Si passa alla droga più pesante o no? 100 milioni di americani, 30 milioni passano alla droga successiva. Un'altra cosa, la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, anche quella è sbagliata, le due sono droghe, sono uguali in tutti i sensi, nel senso che c'è una progressione attraverso vari tipi di sostanze, per cui il concetto di leggere e pesante è molto relativo. Adesso si selezionano le piante e quindi uno può avere fino al 7% di aumento, sì, insomma, di c'è la droga quindi c'è anche lì la droga transgenica. L'ultima domanda, Flash, lei crede alle capacità curative della cannabis? Guardi, sono enfatizzate, purtroppo non c'è moltissimo, sul dolore neuropatico forse c'è qualcosa, però non ci sono studi di confronto con farmaci che sono più efficaci. Quindi non ci sta, che potrebbero essere più efficaci. La storia della nausea di chi fa la chemioterapia non è mai stata provata contro farmaci che adesso abbiamo efficacissimi della nausea per chi fa la chemioterapia, e tutte le altre indicazioni non hanno mai confermato in nessuno studio di confronto eventualmente un'efficacia superiore a quello che abbiamo già, senza contare che qualora avessimo fatto gli studi e trovassimo che c'è un vantaggio, allora si fanno delle pillole che contengono il principio attivo e si utilizzano quelle. Bisogna però prima dimostrare che questi farmaci siano eventualmente superiori, e non è stato dimostrato. Non è stato dimostrato. Allora noi ringraziamo il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, e cambiamo argomento. Perché? Perché in questo momento vogliamo andare a vedere che cosa succede nello spazio. Nello spazio siderale c'è un enorme buco nero. Non ti ci puoi avvicinare, non ti ci puoi... Perché quello si mangia tutto, è un problema allucinante. Buchi neri, Elio e le storie tese. Insomma, noi pensavamo che non si potesse assolutamente uscire dai buchi neri. Poi un esperimento in Israele del Technion University ha dimostrato che in realtà forse si riesce anche a uscire. Poi soprattutto per 10 anni abbiamo creduto alle scie chimiche e adesso ci dicono che le scie chimiche non sono nocive. Insomma, una rivoluzione durante quest'estate su quello che succede al di là della Terra. Gianluca Dotti, giornalista scientifico su Wired, e scrive di attualità scienza e bufale, laureato in fisica, quindi insomma noi vogliamo capire, noi eravamo rimasti alle stringhe, al bosone, ai buchi neri, che cosa è successo con questa scoperta israeliana? Sì, innanzitutto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, che cosa è successo? È accaduto che proprio il giorno di Ferragosto è uscita sulla rivista Nature Physics lo studio che lei citava prima, nel quale viene raccontato un esperimento attraverso il quale l'autore dell'articolo afferma di aver ricostruito sostanzialmente un analogo in miniatura di un buco nero. E da questo buco nero è riuscito a verificare che effettivamente qualche cosa sfugge. Allora, facendo un passo indietro, bisogna andare indietro di una quarantina d'anni, quando il famosissimo fisico britannico Stephen Hawking ha pubblicato la sua teoria secondo cui dai buchi neri, quelli veri, quelli che si trovano nello spazio, potrebbe uscire qualche cosa. Ovviamente per andare oltre la fisica classica secondo cui da un buco nero non può sfuggire assolutamente nulla, nemmeno la luce, è necessario inglobare una teoria un po' più estesa, quindi la meccanica quantistica, la teoria della relatività, e con una serie di calcoli è riuscito a dimostrare che teoricamente è possibile che da un buco nero qualcosa sfugga. Il problema però qual è? È che questi buchi neri emettono questa radiazione, che viene chiamata dai fisici radiazione di Hawking, in modo molto debole e molto raramente. Quindi è sostanzialmente impossibile provare a osservare questa radiazione direttamente dalla Terra. Perciò l'unica possibilità sperimentale è quella di creare un buco nero da laboratorio, non facendolo con grandi quantità di massa da cui si prova a far uscire luce, ma facendolo con una particolare mix di atomi molto freddi, che si chiamano condensato di Bose-Einstein, dai quali si prova a far uscire sostanzialmente un'onda sonora. Il termine tecnico sarebbe fonone, però sostanzialmente un suono. E se questo suono, questa onda che esce, riesce a superare la velocità del suono, è come se nel buco nero, quello vero, uscisse qualche cosa che va più veloce della luce, quindi qualche cosa che riesce a sfuggire dal buco nero. Insomma, è un po' come Interstellar, il famoso film di fantascienza. Allora, riassumiamo quello che però succede nello spazio. C'è sempre il Big Bang, lei ce lo conferma, sì. Certo. C'è sempre la teoria delle stringhe, quindi viviamo delle realtà, c'è sempre il bosone, però si può uscire dal buco nero, è questo che ci sta dicendo. Insomma, si va avanti perché abbiamo capito che il cielo non è più quello dell'epoca di Dante. Intanto però io do la linea alla viabilità e ci ritroviamo con Gianluca Dotti subito dopo. Ma cos'è quest'estate? Torniamo a parlare anche di balle spaziali. Una di queste riguarda le scie chimiche, perché per la prima volta una rivista scientifica dice che le scie chimiche sono una bufala e si tratta di complotti inesistenti. Diamo il benvenuto a Maria Giovanna Luimi, medico, comunicatore, scientifico e scrittrice. Insomma, queste scie chimiche non hanno effetto alcuno sul nostro organismo, dottore? Buongiorno. No, non hanno effetto alcuno sull'organismo, questo perché ormai è stato dimostrato. Sorrido perché alle scie chimiche in realtà non credevamo tutti, spero che ci sia stato qualcuno che come me non ci ha mai creduto in verità. Le scie chimiche sono state create a simbolo della paura, della dietrologia, della voglia di complottismo. Mio fratello credeva alle scie chimiche, lui fa il regista di corti horror e quindi in lui ci stava anche bene, però veramente credere alle scie chimiche è sempre stata una grandissima sciocchezza. Ma poi sono le tracce degli aerei, no? Assolutamente, e comunque non esiste motivo per cui quelle scie possano in qualche modo essere composte da materiale nocivo. Spesso noi dobbiamo chiederci perché dovrebbe accadere. Lei come medico, perché noi crediamo nei complotti? Questo è perché c'è questa vena complottista? Ma credo che in parte sia veramente un'ondata legata a molta comunicazione attraverso fiction, lo dico anche come scrittrice, penso che dovremmo un po' riflettere su tante cose che si comunicano con la fiction. C'è un livello culturale che di recente purtroppo traballa un po' nella media e questo porta a credere a ciò che viene raccontato anche da persone non qualificate. Io amo molto internet, molta della mia comunicazione avviene attraverso internet, però non c'è niente da fare, internet è un mezzo che non è controllato. La radio, per esempio, la vostra radio è un mezzo controllato, di qualità, qualificato. La ringrazio, internet, la conosco molto bene. Poi subito dopo avremo un servizio sulle scie chimiche, la realtà delle scie chimiche, no, sto scherzando ovviamente. No, ma al di là di questo, cioè se anche fate il servizio sulle scie chimiche lo fate bene, questo è il concetto, non è che non si debba parlare di scia chimica. Il punto è che si trova qualunque cosa e qualunque cosa spesso è semplicemente il pensiero di una persona che vede la scia e si immagina scenari. Ecco, la nostra immaginazione è uno strumento bello e necessario. L'immaginazione porta anche alle ricerche scientifiche, alle scoperte evolutive di cui state parlando adesso, ma l'immaginazione, che nell'uomo è inevitabile ed è uno strumento di vita, porta anche ad alcuni falsi clamorosi. Il problema delle scie chimiche è emblematico, è simbolico. Nelle scie chimiche noi in generale abbiamo messo tutte le nostre fantasie di bugia, di complotto, di pericolo, tutte quelle fantasie anche oscure, depressive, che sono un po' tipiche della nostra epoca di crisi, che fanno parte dell'immaginario. Ma che le scie chimiche non fossero dannose, mi creda, si sapeva, o quantomeno che non ci fosse motivo. Non per motivo. Allora, Angelo Carannante, presidente del Centro Ufologico del Mediterraneo a Benevento, organizza da 2 anni il convegno di ufologi a Pomezia. A proposito di fantasia umana, lei è convinto veramente che ci sia una vita oltre la Terra? Ha visto gli UFO qui che arrivavano a Pomezia in mezzo ai capannoni industriali? Prima di tutto, buongiorno a tutti i radioascoltatori e anche a voi ovviamente dello staff, complimenti per la radio. Volevo dire questo, la materia dell'ufologia è molto di confine, per così dire, per cui va trattata con una certa razionalità, cosa molto difficile perché si tratta indubbiamente di un ramo particolare della conoscenza umana. Che gli UFO esistano è un fatto incontestabile. Altra cosa è dire la loro origine, perché UFO sta solo per oggetto volante non identificato. Quanto poi viene identificato diventa IFO, oggetto volante identificato. Però c'è un 5% che sfugge ad ogni razionalizzazione, non si riesce a capire che cosa rappresenti quel fenomeno. Una volta escluse le famigerate lanterne cinesi, una volta esclusi i palloni sonda, una volta esclusi gli aerei visti in particolari condizioni, una volta esclusi i fenomeni naturali, voglio dire, è diciamo una corsa ad esclusione. Alla fine c'è quel 5% che resiste ad ogni spiegazione, quindi tra questa possibilità non escludo l'ipotesi extraterrestre. Ecco, ma lei a Pomezia, in mezzo ai capannoni industriali, che cosa ha visto? Ha visto qualcosa in questi 2 anni di convegno? Qualcuno gli ha portato una prova? Allora, per quanto riguarda la prova schiacciante del diciamo che non c'è, però vi sono tantissimi indizi in questa fenomenologia UFO che portano verso un'origine intelligente in una buona percentuale di casi. Tenga presente che gli Stati Uniti d'America dagli anni 50 agli anni 70 hanno commissionato un progetto famosissimo chiamato Blue Book che ha analizzato circa 13.000 casi, dei quali circa il 6% quasi, diciamo, è restata inspiegata, nonostante la commissione fosse composta da membri tendenzialmente scettici. Quindi diciamo che ci sono ragionevoli possibilità che vi sia una matrice aliena dietro alcuni avvistamenti. Ok, Gianluca Dotti, giornalista scientifico, laureato in fisica, impegnato anche contro il cyberbullismo, ma insomma cose più provate. C'è la possibilità che ci sia la vita oltre la Terra? Perché poi questa è una delle domande che assillano l'umanità. Beh, allora, in assoluto la possibilità ovviamente esiste. Abbiamo visto che insomma scienziati e le ricerche spaziali si stanno orientando anche verso la ricerca di pianeti potenziali che possono trovarsi a orbitare intorno ad altre stelle che hanno caratteristiche che possono essere in qualche modo simili alla Terra e nei quali è possibile potenzialmente che si siano sviluppate delle forme di vita più o meno simili a come noi le possiamo immaginare. Però è anche da dire che a oggi scientificamente, come ricordava anche prima il vostro ospite Angelo Carrante, non abbiamo delle prove tangibili, delle prove scientifiche che possano portarci a dire che sì, c'è la vita fuori dalla Terra, e dal momento che il metodo scientifico presuppone di affermare che qualcosa esiste solo dopo l'osservazione, al momento non possiamo di certo affermare che esiste. Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico e scrittrice, perché l'uomo cerca gli UFO, le sirene, Atlantide? Insomma, perché c'è questa ricerca oltre le tre dimensioni? Ma io credo che sia assolutamente plausibile che esista vita al di fuori della Terra, anzi è molto probabile. Che poi questa vita decida di prendere una navicella e venire a trovarci mi sembra un po' meno credibile, però non si sa mai. Anche perché visto che cosa succede sulla Terra e quello che purtroppo sta succedendo anche in Siria, è meglio che se ne tengono distanti. Problemi molto concreti, però al di là di questo abbiamo bisogno di sognare, una parte di noi necessaria. Se vogliamo parlare di scienza come stiamo facendo, dobbiamo ammettere che l'uomo non è solo razionalità, l'uomo è anche sogno, creazione creativa. L'energia creativa è una parte di noi oggettiva, esiste. Quando noi blocchiamo l'energia creativa, la medicina occidentale dice che blocchiamo meccanismi psichici, la medicina orientale dice che questo blocco energetico crea malattia fisica. E io credo a entrambe le medicine, peraltro, perché sono anche medico olistico. Credo che il bisogno di sognare sia il nostro bisogno di creare mondi, creare fantasie. È importante rendersi conto di quanto queste fantasie siano effettivamente fantasie. Nessuno esclude che si realizzino, ma vanno trattate come fantasie, e quanto invece si vada a costruire sulle fantasie poi un ragionamento pseudo-razionale che non va bene. Quindi è importante distinguere la nostra parte creativa da parte artistica, che è quella legata alla longevità. Non so se lei sa che la longevità è legata alla creatività, non solo all'alimentazione. La categoria professionale più longeva del mondo è quella degli artisti, perché tirano fuori quella parte di sogno e di creatività. Quindi la creatività è necessaria. È chiaro che va gestita. Quindi va distinta fantasia e realtà. Angelo Calanante, lei ha detto non c'è la prova scientifica, ma un giorno, magari guardando in cielo, lei ha visto qualcosa che non la convinceva? Senta, a me è capitato diverse volte di assistere a fenomeni cosiddetti ufologici. Intanto io con la dottoressa non è che voglio fare polemica, ma ci andrei piano, perché ridurre tutto sul piano delle sirene, mettere sirene ufologia... No, l'ho detto io, non l'ha detto la dottoressa. Ah, l'ha detto lei, chiedo scusa. Allora, mettere sullo stesso piano un fenomeno che è studiato scientificamente con le sirene, onestamente mi sembra un po' azzardato. Oltretutto, premesso che invito tutti quanti ovviamente a venire a convivere di Pomezia, domenica 2 ottobre, organizza la dottoressa Francesca Bittarello, veramente una bravissima organizzatrice. Mi ripeta la sua domanda. Quindi ha visto qualcosa in cielo che non la convinceva? Sì, assolutamente, abbiamo tantissime segnalazioni, le ripeto, noi non escludiamo la natura extraterrestre del fenomeno UFO in alcuni casi, non dobbiamo ragionare come ai tempi della Terra piatta, non è possibile percorrere queste distanze perché sono immense, noi abbiamo una tecnologia allo stato adolescenziale, siamo agli inizi del nostro sviluppo, non sappiamo dove arriveremo, nessuno 30 anni fa aveva previsto i cellulari, per cui ci andrei piano col razionalismo bieco e dogmatico. Va bene, Dotti, ha detto appunto anche Caranante, siamo all'inizio, siamo proprio dei bambini della scienza, che cosa ci porterà quest'ultima scoperta sui buchi neri? Allora, una possibilità molto pratica e a breve termine è quello del premio Nobel a Stephen Hawking, nel senso che se finalmente sarà confermata l'effetto della radiazione di Hawking, quindi cioè, che i neri non sono senza fondo, quindi potrebbe arrivare il Nobel. E potrebbe arrivare il Nobel, non è male. Allora, io ringrazio la mia redazione, Silvi Boccaletti, Massimiliano Lollis, Gloria Guerrera, ringrazio il mio angelo in regia, Leonardo, ma soprattutto vi do appuntamento con Deborah Rosciani alle 8:15 lunedì prossimo con Ma cos'è quest'estate? Linea.